Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ritrovati, questo è Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo di tutti gli animali, umani e non. Una trasmissione che va in onda da 8 anni e oggi siamo giunti alla puntata 545, nella quale parleremo della corrida e dei fondi della politica agricola comunitaria, del coronavirus dei mattatoi, questa volta italiani, della stretta sui mercati cinesi di uccelli vivi, del Covid-19 e gli animali negli zoo, un caso italiano. Aggiornamenti sull'orsa JJ4 e sul suo ordine di abbattimento. Il tutto come sempre verrà squisitamente condito dalla ricetta del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, mentre la scaletta musicale di oggi non può che essere dedicata a Ennio Morricone, recentemente scomparso, noto e amato compositore, musicista e direttore d'orchestra, autore di colonne sonore memorabili che hanno fatto la storia del cinema italiano. Se vi abbiamo incuriositi, allora non potete perdervi questa nuova puntata. Apriamo la puntata tornando a parlare di corride, questa volta non per segnalarvi un'amministrazione lungimirante che sta cercando di attivarsi per abolire questa pratica tanto barbara quanto antiquata, ma per segnalarvi come l'ultima investigazione della LAV, insieme ad altre associazioni, abbia scoperchiato la natura anche fraudolenta della corrida. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2019, l'unità investigativa LAV ha avuto modo di documentare in Spagna 3 spettacoli, ad Algemesi, Siviglia e Madrid. Durante gli appostamenti, gli investigatori hanno documentato vere e proprie sevizie sugli animali. In molti casi il matador colpisce il toro con le stock, uno spadino da 88 cm, causando agli animali gravi e lente emorragie, fino alla morte in un lento soffocamento. In altri casi, quando l'animale subisce il colpo di grazia, la puntilla, ovvero il pugnale, viene conficcata più volte tra atroci sofferenze. Due degli spettacoli riguardano le principali arene spagnole, Siviglia e Madrid, e mostrano animali uccisi violentemente, seviziati e giustiziati dopo una lunga agonia. Altri si feriscono gravemente per lo stress appena entrati nell'arena. Ma oltre a quello che dovrebbe indignare ogni giorno i cittadini davanti a tanta tortura e violenza, l'investigazione ha rivelato anche alcuni aspetti economici e di consumo, per esempio l'enorme valore di un toro da corrida. in parte perso alla fine dello spettacolo, quando ormai il toro è carne da macello. Pensate che, come ha dichiarato un allevatore intercettato da una telecamera nascosta, un toro da corrida è la Ferrari dei tori. E si capisce così l'aspetto economico che gravita intorno a questo cosiddetto spettacolo. Nell'inchiesta emerge come i fondi agricoli europei rappresentino un terzo del reddito totale degli allevatori di tori da corrida. Gli stessi allevatori ammettono di ricevere fondi dalla comunità europea con altri espedienti e dalle comunità locali, ricevendo quindi fondi dell'Unione Europea per le mucche per attività non collegate all'allevamento di tori per le corride. Il mondo della corrida beneficia di finanziamenti pubblici europei nonostante la volontà contraria del Parlamento europeo. A fine ottobre 2015, infatti, Bruxelles ha approvato un emendamento al bilancio 2016 che prevede che non si debbano utilizzare i fondi della PAC, la politica agricola comune, né di qualsiasi altra linea di finanziamento europeo per sostenere economicamente attività taurine che implichino la morte del toro. Le sovvenzioni della PAC costituiscono il 31% delle entrate per gli allevamenti di animali destinati alla corrida. Senza questi finanziamenti difficilmente riuscirebbero ad andare avanti. Ci uniamo con forza alla legittima domanda che si pone la LAV. Come può l'Unione Europea finanziare questo orrore? La nuova politica agricola europea entrerà in vigore nel 2021 fino al 2027. È perciò il momento di sollecitare la Commissione e il Parlamento UE a sospendere immediatamente l'erogazione di questi fondi pubblici destinati all'agricoltura e non alla tortura. Ricordiamo inoltre che l'81% degli spagnoli, addirittura l'84% dei giovani, secondo il sondaggio Ipsos Mori, si dichiara ufficialmente contrario alle corride. E ai tori, alle corride, ispirata alla ricetta di oggi, curata come sempre dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile. E vi ricordiamo che tutte le ricette, così come le puntate, sono riascoltabili in podcast sul sito www.restiamoanimali.it. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Bella la Spagna, ci piace, ma la Spagna senza la corrida ci piace ancora di più. E se qualcuno ha per caso nostalgia delle tradizioni, lo accontentiamo subito con la ricetta dei churros, per la felicità di grandi e piccini e dei tori. Ingredienti per 4 persone per i churros sono 300 g di farina tipo 0, 300 ml di acqua, mezzo cucchiaino di scorza di limone grattugiata, un pizzico di sale, 100 g di zucchero di canna, mezzo cucchiaino di cannella in polvere e olio di semi di arachide per friggere. In una pentola portate ad ebollizione l'acqua con 30 g di zucchero di canna ed il pizzico di sale. Togliete dal fuoco e versate la farina setacciandola poco alla volta e mescolando con un mestolo di legno. Aggiungete la scorza di limone e lavorate per un paio di minuti, quindi lasciate intiepidire coprendo con un panno. Quando vi sarà possibile toccare l'impasto senza scottarvi, mettetelo in una sac à poche con il beccuccio a stella. Realizzate dei churros lunghi circa 15 cm e adagiateli su un foglio di carta forno. Friggete i churros in immersione in abbondante olio ben caldo. Dovranno risultare ben dorati all'esterno e morbidi internamente. Scolateli e fate asciugare su carta per frittura. Mescolate il rimanente zucchero di canna alla cannella in polvere e passateci i churros. Serviteli caldi. Quando il coronavirus si è diffuso in alcuni dei principali allevamenti e macelli americani, colpendo moltissimi lavoratori, la notizia ha fatto molto scalpore. Ma era comunque qualcosa di lontano, che più di tanto, diciamo, non ha indispettito i cittadini europei e gli italiani. Quando la stessa cosa è successa in Germania e più di 1.300 lavoratori di un mattatoio sono risultati positivi al Covid-19, la cosa ci ha preoccupato più da vicino. Oltre ad aver messo in luce come molti dei lavoratori assunti nei mattatoi della compagnia tedesca siano appunto assunti con contratti estremamente precari, siano a maggioranza di nazionalità straniera, rumena, bulgara e polacca, riportando così in cima all'agenda del Ministero del Lavoro tedesco la questione delle precarie condizioni di impiego della manodopera straniera nell'industria della carne e in generale nel settore agricolo. E come era tristemente prevedibile, il coronavirus è tornato a fare paura ancora una volta in Lombardia, con un focolaio che ha investito 2 salumifici e 3 macelli nella provincia di Mantova. In una decina di giorni sono stati effettuati 1.000 tamponi tra i dipendenti, diretti o reclutati dalle cooperative, così come in Germania, principalmente lavoratori extracomunitari. Almeno 68 i casi di Covid rilevati e il timore non può che essere quello che si è verificato in Germania. Nel frattempo i protocolli anti-Covid messi in atto dall'ATS Valpadana sembrano aver contenuto i focolai prima che si propagassero in maniera pericolosa e così tutte le strutture tranne una sono tornate a funzionare regolarmente. Il prefetto di Mantova, Carolina Bellantoni, dopo una riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, ha chiesto alle forze dell'ordine di intensificare l'attività di vigilanza e di controllo sulle misure di isolamento, invitando i sindaci ad attivare i presidi necessari per assistere le persone in quarantena. E mentre il nuovo focolaio dell'industria della carne nel Mantovano ha riportato a galla le polemiche animaliste sull'allevamento intensivo e l'abbattimento di maiali e altri capi di bestiame, su altri fronti tutto tace. Come se il coronavirus ancora non ci avesse insegnato proprio niente. Thank you. Parliamo ancora di coronavirus e questa volta torniamo in Cina, dove tutto ha avuto inizio. Poco dopo l'esplosione della pandemia, molti wet market, ovvero i luoghi dove si vendono prodotti freschi e animali selvatici vivi, erano stati temporaneamente chiusi e poche settimane dopo la provincia di Shenzhen aveva persino inserito i cani e i gatti nella lista degli animali d'affezione, sottraendoli così a quella degli animali destinati a diventare cibo. Insomma, la Cina si avviava lentamente verso standard alimentari più regolamentati, standard richiesti a gran voce da moltissimi esperti e dalla stessa OMS. Ma a distanza di qualche mese, con la fine del lockdown, i wet market hanno riaperto, tant'è che lo scorso 3 aprile Anthony Fauci, il virologo della task force della Casa Bianca, ne aveva auspicato la chiusura definitiva. Ad oggi restano però, per ora, alcuni provvedimenti singoli piuttosto confusi e contraddittori. Pechino, per esempio, ha vietato il commercio di animali selvatici e Wuhan lo ha sospeso per 5 anni, mentre il ministro dell'Agricoltura ha recepito l'iniziativa di Shenzhen e ha inserito i cani nella lista degli animali d'affezione, ma come per controbilanciare ha allargato la lista degli animali d'allevamento, includendo ora l'emu e l'anatra muschiata. In tutto questo Tetris di leggi e regolamenti merita però di essere segnalato un altro provvedimento. Sembra infatti che la Cina limiterà a livello nazionale il commercio e la macellazione degli uccelli vivi e ne chiuderà gradualmente i mercati. Gli uccelli allevati in gabbia sono un elemento comune nei mercati all'ingrosso di prodotti agricoli e freschi in tutta la Cina. Vengono tradizionalmente macellati sul posto dagli allevatori oppure gli acquirenti possono scegliere di farlo a casa, per garantire, secondo la convinzione di tanti di loro, la massima freschezza della carne. Inoltre, Cheng Su, funzionario dell'Amministrazione Nazionale della Regolamentazione dei Mercati, ha esortato i governi locali a rafforzare la sorveglianza della sicurezza alimentare nei mercati all'ingrosso agricoli. Il suo annuncio è stato accolto con favore dai gruppi per i diritti degli animali. Siamo lieti di vedere che i mercati di uccelli vivi stiano scomparendo in Cina, ha dichiarato Jason Baker, vicepresidente della PETA Asia, sperando che questa politica si estenda a tutti i mercati di animali vivi nel paese. Anche noi naturalmente ci auguriamo la fine di questi mercati, anche se ad oggi sembra difficile intravederne una chiusura in tempi non troppo lontani. Difatti, il commercio di animali selvatici e i wet market sostengono una gran parte dell'economia delle famiglie cinesi, soprattutto quelle a basso reddito e nelle zone rurali. Basti pensare che intorno al commercio degli animali selvatici, a questi wet market, si legge in un approfondimento sul portale web Galileo.it, oggi ruota un mercato di 74 miliardi di dollari, valore stimato nel 2017 dalla Chinese Academy of Engineering. Inoltre sono 14 milioni le persone che lavorano in questo settore, di cui quasi la metà nell'ambito alimentare. È indiscutibile come il coronavirus stia creando indicibili sofferenze sia agli umani che agli animali. Nei casi peggiori, questi ultimi, come i visoni d'allevamento olandesi o i maiali americani, vengono abbattuti perché si sarebbe verificato il salto di specie. Altri rischiano di morire per cause collegate alla pandemia e vivono in condizioni di estrema sofferenza. È il caso di molti animali degli zoo, dove a causa dell'assenza di visitatori il loro mantenimento è sempre più critico. È il caso degli animali del circo Martino Orfei, che si trova bloccato a Saline Joniche in provincia di Reggio Calabria. Il circo è arrivato alla fine di febbraio nel comune calabrese, proprio all'inizio della diffusione della pandemia in Italia. Il personale aveva sistemato i tendoni su un terreno privato nei pressi della statale 106. Poco dopo è stata proprio l'emergenza coronavirus a impedire alla carovana sia di esibirsi sia di spostarsi, e ora il circo si trova senza fondi e impossibilitato a muoversi. Oggi, dopo più di 4 mesi, la situazione è diventata insostenibile per questi animali. Si tratta di circa 40 esemplari tra elefanti, cavalli, cammelli, dromedari, una zebra e un rinoceronte, costretti a vivere sotto il sole cocente, in una forte situazione di stress anche a causa del continuo rumore delle automobili che transitano sulla vicina superstrada. Il circo, si legge su greenme.it, in questi mesi ha ricevuto solidarietà da parte di alcune associazioni e privati che si sono premurati di far recapitare generi alimentari, prodotti per l'igiene personali e fieno per alimentare gli animali. La direzione ora lamenta di non avere disponibilità economiche per poter spostare il personale e gli animali, una situazione di stallo che sta causando una sofferenza inaccettabile per gli animali, già costretti a vivere una vita di prigionia e sfruttamento. I titolari del circo, aiutati dall'associazione Calabriamoci, si legge sempre su grimi.it, hanno avviato una raccolta fondi con la quale sperano di reperire le risorse finanziarie necessarie a spostarsi e chiedono alle istituzioni che gli sia concesso di esibirsi. Un incredibile quanto assurdo circolo vizioso ed è quanto mai evidente come questa pandemia stia dimostrando tutta l'insensatezza del sistema in cui viviamo, a partire da quello legato al cibo, al clima e all'industria dell'intrattenimento. Settimana scorsa vi avevamo parlato dell'ennesima minaccia di morte nei confronti di un altro orso, accusato di aver attaccato il 22 giugno sul Monte Peller, in provincia di Trento, due persone in un bosco, e per il quale è stata in 448 emessa un'ordinanza di cattura e condanna a morte dal presidente della provincia, Maurizio Fugatti. Il caso però è più aperto che mai. Le analisi condotte sul DNA prelevato sugli indumenti delle due persone coinvolte, due cacciatori, hanno evidenziato che l'orso in questione dovrebbe essere JJ4, un'anziana femmina di quasi 15 anni, figlia di Giurca, l'orsa catturata dalla provincia di Trento perché è definita problematica e trasferita in un santuario in Germania nel 2006. JJ4 non ha mai dato alcun problema, difatti fin da cucciola veniva definita molto più schiva della madre, dalla stessa provincia di Trento. Il sito Grandi Carnivori della stessa provincia informa che nella zona dello scontro con JJ4 sono stati segnalati almeno 4 avvistamenti di orse con cuccioli e Si rende quindi ancora più necessaria, dichiarano le associazioni animaliste, un'indagine accurata prima di trarre conclusioni affrettate, perché JJ4 potrebbe essere accompagnata dai suoi cuccioli e quindi lo scontro potrebbe essere stata la conseguenza di questa sua condizione. Anche la LEA, Lega Antivivisezionista, chiede al Trentino un cambio di strategia. La guerra agli orsi e ai grandi carnivori deve finire, dichiara l'associazione. Sarebbe ora che si deponessero le armi, dando il via all'informazione e alla formazione, diffondendo tutte quelle conoscenze etologiche e regole di comportamento che sono alla base di una pacifica e rispettosa convivenza tra fauna selvatica ed essere umano. Ed è davvero un brutto momento per gli orsi del Trentino. Si sta verificando una sorta di incomprensibile accanimento. Recenti sviluppi confermano che anche M49, l'orso che si trova imprigionato nel recinto del Casteller in Trentino dallo scorso aprile, quando era stato catturato per la seconda volta, non trova tregua. Nonostante le proteste sia delle associazioni animaliste, sia di alcuni esponenti politici, sia dei cittadini, la provincia tira avanti per la propria strada. E così Papillon, come l'aveva ribattezzato chi lo voleva libero in natura, è stato sottoposto anche a castrazione chimica e a confermarle proprio la provincia di Trento. Siamo l'unico stato al mondo, si legge su Trento Today, in cui gli orsi nati selvatici vengono messi in cattività e imprigionati in gabbie recinti, ha detto l'ex veterinario provinciale Alessandro De Guelmi ai microfoni Rai. Quello che segue poi è tutta una serie di azioni per consentire a questi orsi di sopravvivere dentro i recinti che vanno certamente contro le logiche del benessere animale. E con quest'ultima notizia è davvero tutto, noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana con la redazione di Restiamo Animali, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 546 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.